Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Questa è la storia di Forza Rignano, un movimento che andrà a lontano. Vi domandate ma chi è il fondatore? Ma sono io, tutto da al Signore. Ora tranquilli, io farò un repulisti e tutto fuori questi comunisti. Rignano avrà. Lo sentite questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori? Questo è un Renzi dannata, perché è del 96, quindi aveva 21 anni e già allora con la sua chitarrina alla parrocchia faceva una parodia di Berlusconi, della storia di Forza Italia, due anni dopo della discesa in campo dell'ex cavaliere, che evidentemente già subdorava che piano piano l'avrebbe raggiunto e ne avrebbe anche, diciamo così, occupato quello che era stato il suo ruolo, semplicemente rivestito ruolo di Presidente del Consiglio. C'era già nel suo destino, insomma, nel suo futuro questa realtà di oggi. Bene, questo tanto per incominciare un po' con il sorriso, sono cose reali, di cose reali poi ne racconterò tante come sempre raccontandovi la giornata, a cominciare dal caso Geithner, che continua a fare discutere moltissimo da ieri, questo presunto complotto nei confronti di Berlusconi nel 2011 da parte di funzionari europei, anche se poi i funzionari europei danno colpa invece agli Stati Uniti, è tutto un rinfacciarsi colpe, poi cercheremo di capire un po', di prendere il bandolo della matassa se fosse possibile, ma ovviamente non possiamo deciderlo noi, però ne parleremo e vorrei che anche voi esprimeste le vostre opinioni su questo fatto. Che credibilità ha secondo voi e che cosa ne pensate, se c'è stato e se è il caso per esempio di aprire una commissione d'inchiesta come ha chiesto Brunetta di Forza Italia. C'è per le vostre opinioni sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure potete scrivere gli sms al 349 238 6666. Ma vediamo quali sono i vari titoli. Caso Geithner, Berlusconi insiste e dice fu un complotto, ma il Quirinale assicura di non aver mai saputo di pressioni sull'Italia. Decreto IRPEF, il bonus di 80 euro spetta anche a casse integrati e lavoratori in mobilità, così dice l'Agenzia delle Entrate. Caso genovese, il voto sull'arresto slitta, il Movimento 5 Stelle all'attacco del PD e Grillo lancia un appello alla polizia, non lasciatelo fuggire in Libano. Riforme, Renzi nelle metropoli del sud dice scusate, le risorse ci sono usate, il mezzogiorno non è spacciato, avanti con le riforme. Turchia, manifestazioni in tutto il paese dopo l'incidente alla miniera con 238 morti. E per il cinema si apre il Festival di Cannes, fischi per Grace, interpretata da Nicole Kidman, accoglienza quindi freddina dopo le polemiche con la famiglia Grimaldi. Partiamo quindi dall'accesa polemica sul presunto complotto, la presunta congiura contro Berlusconi per portare le dimissioni di Berlusconi nel 2011, dopo il silenzio dei vertici dello Stato di cui si è lamentato nelle ultime ore l'ex cavaliere, interviene allora il Quirinale e assicura di non aver mai saputo nulla di pressioni sull'Italia. Chiamato in causa direttamente da Berlusconi, che aveva parlato di gravissimo silenzio delle istituzioni, il Quirinale interviene con un comunicato sul polverone alzato dalle memorie di Tim Geithner, ex segretario al tesoro americano. Il capo dello Stato non fu mai portato a conoscenza di pressioni subite dal Presidente del Consiglio nei momenti e nei luoghi di recente evocati. Le dimissioni liberamente e responsabilmente rassegnate da Berlusconi, dice ancora la nota del Quirinale, non vennero motivate se non in riferimento a eventi politico-parlamentari italiani. Napolitano si tira fuori dunque da quello che Berlusconi continua a chiamare complotto e che portò alle sue dimissioni alla fine del 2011. Io mi ritirai perché prevalse in me il senso di responsabilità per mantenere stabilità nell'emergenza al mio paese. Fu nominato un governo di tecnici, si tratta di colpo di Stato. Nessun complotto contro Berlusconi, è venuta meno la sua maggioranza, commenta D'Alema. Quel governo cadde perché era fragilissimo, aggiunge l'ex presidente della Camera Fini. Da Forza Italia tuttavia Brunetta rilancia e presenta una proposta per istituire una commissione d'inchiesta. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E continuiamo sulla politica. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è stato accolto da applausi ma anche da qualche fischio al suo arrivo oggi davanti alla Prefettura di Reggio Calabria. In mattinata poi era stato precedentemente a Napoli. Vogliamo smontare due considerazioni, ha detto, che l'Italia sia il problema dell'Europa e che il Sud sia il problema dell'Italia. La tesi del governo è che l'Italia è il problema dell'Italia e voglio provocare, il Sud è il problema del Sud. Credo cioè che dentro di noi ci sia la possibilità per uscire dalla crisi. Non è vero che il nostro problema deriva dall'Europa o che l'Italia è il problema dell'Europa. E non è vero che il Sud è spacciato per cause esterne. Il Sud, se il Sud fa il Sud e sfrutta bene ciò che abbiamo di fronte a noi, possiamo rimettere in moto la speranza non soltanto in questa parte del paese. E intanto il Movimento 5 Stelle va all'attacco del PD sul caso Genovese, cioè il deputato democratico per il quale è previsto un voto sulla decadenza. Un rinvio che scatena le ire del Movimento 5 Stelle, scontro alla Camera fra PD e Grillini sul caso Genovese. Il voto sul deputato democratico accusato di associazione a delinquere, riciclaggio, peculato e truffa formulate dalla Procura di Messina era previsto per stasera, ma verrà rimandato molto probabilmente a dopo le elezioni europee. L'Aula respinge la richiesta di far slittare il voto finale del decreto lavoro ad altra seduta. Commenta così il Grillini. Riccardo Nuti. Semplicemente sono delle operazioni da parte del PD, SEL, con l'appoggio poi di tutti gli altri partiti, per rinviare il voto genovese e farlo slittare dopo le elezioni. A fare ostruzionismo è SEL, contrario al decreto perché produce precarietà. Gennaro Migliore replica in aula al Movimento 5 Stelle. Io non accetto che questa diventi un'aula che diventa una gogna. Ho votato per l'autorizzazione all'arresto di un collega deputato, ma dire che è un delinquente spetta a un tribunale. Dal PD invece arriva il tweet di Deborah Serracchiani. Su Genovese il Movimento 5 Stelle profuma d'imbroglio e di vecchia campagna elettorale. Fuori la faccia e votino come il PD. Sì all'arresto. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Vedo intanto molti dei vostri messaggi che stanno arrivando sia alla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, sms sul presunto complotto contro Berlusconi. Intanto però parliamo anche delle novità che riguardano il decreto IRPEF che sarà relativo anche ai cassi integrati e ai lavoratori in disoccupazione lo riceveranno sul fronte del bonus di 80 euro, però di questo parleremo dopo entrando un po' nei dettagli. Siamo adesso sulla questione immigrazione, c'è un aumento straordinario degli immigrati sbarcati in Italia nei primi mesi dell'anno, lo rileva Frontex, cioè l'agenzia dell'Unione Europea per il controllo delle frontiere. Arrivano a pochi giorni dall'ultima tragedia del mare nel canale di Sicilia i dati di Frontex che fotografano un aumento da record degli sbarchi nel nostro paese. Secondo l'agenzia europea che si occupa del controllo delle frontiere, nei primi 4 mesi dell'anno gli arrivi di migranti in Italia sono cresciuti dell'823% rispetto allo stesso periodo del 2013. Da gennaio ad aprile si sono registrati 25.650 arrivi in Sicilia e altri 660 fra Puglia e Calabria. Sono sempre di meno i migranti per motivi economici, mentre aumentano i rifugiati in fuga da paesi in guerra come Siria ed Eritrea, spiega Frontex, secondo cui il flusso di arrivi illegali attraverso la rotta del Mediterraneo centrale è favorito anche dalle difficoltà da parte della Libia a controllare le sue frontiere. I responsabili di Frontex lanciano poi un allarme sui bilanci, spiegano che il budget dell'agenzia per il 2014 è stato ridotto e che la Commissione europea ha bocciato la loro richiesta di un fondo straordinario da utilizzare in caso di emergenza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci adesso sulle notizie dall'estero per parlare della tragedia in Turchia, dove dopo l'incidente alla miniera di Soma sono iniziate manifestazioni di protesta in tutto il paese. Prima l'esplosione, poi l'incendio, la corsa agli ascensori bloccati e il tentativo di fuggire mentre il monossido di carbonio si diffondeva lungo le gallerie bloccate. Sono questi i primi racconti dei sopravvissuti all'esplosione nella miniera di Soma nell'ovest della Turchia. I morti al momento sono 245, ma potrebbero aumentare nelle prossime ore. Tra di loro c'era anche un ragazzo di 15 anni. Il premier Erdogan ha stimato che le persone ancora intrappolate sotto le pietre della miniera turca potrebbero essere 120, cifre lontane da quelle fornite dal ministro dell'energia che ha parlato di quasi 800 minatori sottoterra al momento dello scoppio. È il peggiore omicidio di lavoro della storia di questo paese, ha denunciato l'ex leader del sindacato dei minatori turchi che ha parlato di scarse tutele e turni massacranti di lavoro. I sindacati hanno annunciato per domani uno sciopero generale, ma manifestazioni sono già in corso in tutto il paese, dove ci sono stati scontri con la polizia. Nel 2013 l'opposizione aveva chiesto in Parlamento una inchiesta sui numerosi incidenti registrati entrati nella miniera di Soma, proposta respinta dal partito islamico del premier Erdogan. Intanto il premier francese Hollande e la cancelliera Merkel hanno dato la loro disponibilità per dare supporto alle operazioni di soccorso. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora di nuovo in Italia con le novità sulle inchieste giudiziarie. Partiamo dal caso Scajola. È stata accolta dalle autorità francesi la richiesta di estradizione nei confronti di Chiara Rizzo, moglie di Amedeo Matacena. Come un vaso di Pandora, la vicenda che ruota attorno all'arresto dell'ex ministro Claudio Scajola ha dato il via a nuove tranche di indagine, tra queste anche la riapertura del fascicolo sulla mancata assegnazione della scorta al gius lavorista Marco Biagi, ucciso dalle Brigate Rosse 12 anni fa. Delle indagini, per ora a carico di ignoti, si occupa la procura di Bologna, alla quale sono state trasferite le carte sequestrate alcune settimane fa all'ex segretario di Scajola, Luciano Zocchi. Intanto oggi in procura a Reggio Calabria si è svolta una riunione operativa alla quale hanno partecipato anche i vertici della direzione investigativa antimafia. Al centro dell'incontro la corposa documentazione sequestrata a Scajola, trovata nella sua casa di Monte Carlo, un minuzioso archivio raccolto dall'ex ministro di cui farebbero parte anche documenti secretati, a proposito dei quali Scajola dovrà dare spiegazioni. Da Oltralpe invece, dove si trova in carcere la moglie di Amedeo Matacena, Chiara Rizzo, è arrivato l'ok alla sua estradizione in Italia. La donna potrebbe varcare la frontiera a fine settimana. Anche lei avrà molte cose da spiegare sulla latitanza del marito e sui suoi rapporti con Scajola. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto ci sono le divisioni sempre più tese all'interno della Procura di Milano, che si intrecciano con gli sviluppi delle indagini sulla corruzione negli appalti Expo. Raffaella Calandra. Due interrogatori fiume: da una parte l'imprenditore accusato di aver versato tangenti per centinaia di migliaia di euro, dall'altra il presunto mediatore di mazzette. In mezzo, tutto intorno, una nuova puntata della guerra ai vertici della Procura di Milano. Per ora Enrico Maltauro, il costruttore vicentino, ha risposto alle domande del PM Claudio Gittardi, dando ulteriori dettagli e chiarimenti su quei soldi che, come da lui stesso dichiarato durante l'interrogatorio di garanzia al GIP, negli anni ha pagato alla cupola per avere spianata la strada agli appalti Expo, ma anche Sogin e della Sanità. Davanti alle foto che lo ritraggono mentre consegna soldi a Sergio Cattozzo, ha ammesso i fatti, hanno confermato i suoi difensori e oggi ha parlato ancora più in dettaglio. Vedremo se dando ulteriori dettagli e chiamando in causa anche altre persone. Così anche Sergio Cattozzo, ex esponente ligure dell'UDC, il cui interrogatorio è cominciato a partire da quei post-it con il registro delle tangenti consegnato alla Guardia di Finanza al momento del suo arresto. Sta invece preparando un memoriale dal carcere l'ex compagno G, Primo Greganti, che fino ad ora ha respinto ogni accusa. Tutto intorno dovrebbe al mezzo di una così delicata inchiesta in fervora la battaglia tra i vertici della procura. Oggi Alfredo Robledo a rispondere con una nota all'attacco della procuratore capo che l'aveva accusato davanti al CSM di intralcio all'indagine. Bruti liberati, dice il falso, scrive il procuratore aggiunto, e per ora è tutto. Grazie. Adesso cinema. Si è aperta oggi la 67esima edizione del Festival di Cannes con un esordio non molto fortunato del film su Grace di Monaco, di cui parleremo poi direttamente in collegamento con Cannes. E per lo sport, ciclismo, si aggiudica la quinta tappa del Giro d'Italia, cioè 200 km da Taranto a Viggiano. Diego Ulissi, primo italiano a vincere in questa edizione del Giro, resta in maglia rosa l'australiano Michael Matthews. E per il calcio è cominciata da pochi minuti a Torino la finale di Europa League. Siviglia-Benfica per il momento sono 0-0. Abbiamo Dario Ricci, su subito, spunta come sempre dal cilindro. Dario, prego. No, sono uscito dallo stadio di Torino, dalla Juventus Stadium, trentesimo di gioco, Roberta, risultato sullo 0-0, partita chiaramente molto equilibrata, una buona occasione per il Benfica al quindicesimo con Garay che da sotto misura ha colpito il palo dopo la deviazione del portiere del Siviglia Bento. Finora lo spettacolo più bello delle due tifoserie, stadio completamente bianco-rosso, visto i colori di Benfica e Siviglia, nessun incidente, tanto spettacolo sulle curve, speriamo arrivi presto anche dal campo. Adesso una buona occasione per il Siviglia, ma il portiere del Benfica, Oblak, anticipa l'attaccante Bacca. Trentesimo di gioco, ancora 0-0 tra Benfica e Siviglia. Grazie per la puntualità, Dario Ricci, sgattaiolato allo stadio di Torino. Intanto leggo moltissimi vostri messaggi, stanno arrivando. Per esempio dice Alberto da Monserrato: hanno fatto bene a cercare di mandar via Berlusconi, anzi dovevano farlo prima, non aspettare così tanto. E poi Silvana: non credo al complotto, ma se ci fosse stato avrebbero fatto bene. Ancora lui sì che ha tramato contro Prodi e indagato, ci vuole memoria. Un altro ascoltatore o ascoltatrice dice: Roberta, complotto o non complotto, la verità che comunque il governo Berlusconi stava cadendo, quindi che non ci prenda in giro tutto il PDL. Questo sui messaggi 349-238-6666 per le vostre opinioni, ma anche poi leggerò quelli sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Giusto gli aggiornamenti per chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Adesso cominciamo ad approfondire insieme agli ospiti, che tra poco comincerò a salutare, alcuni dei temi di oggi, per esempio quello del bonus, tra poco, che andrà anche a varie altre categorie rispetto a quelle che si era detto all'inizio. E poi parleremo anche del presunto complotto, continuiamo a chiamarlo così perché ancora vanno chiarite le cose, nei confronti di Berlusconi. Prima leggevo qualche vostro messaggio al 349-238-6666, molti ci sono anche alla pagina Facebook di Effetto Notte. Ma prima vi ricordo, avete acceso la radio in questo momento, vi ricordo le notizie principale di oggi. Napolitano: nessun complotto, dice Berlusconi, scelse di lasciare. L'ex cavaliere dice: se attacco la magistratura o il Colle rischio San Vittore, cioè il carcere di Milano. Decreto IRPEF 80 euro anche a cassa integrati e disoccupati, bonus a stranieri e part time. In Senato intanto c'è una pioggia di emendamenti. Expo: sale lo scontro in procura a Milano fra Robledo e Bruti Liberati. Inchiesta giudiziaria su Bibanca, indagati Pesenti e Bazzoli. Ecatombe in Turchia, 238 minatori sepolti nella miniera, ancora 120 intrappolati, violenti scontri per le proteste a Istanbul. Fischi a Cannes, si è aperto oggi il festival per Kidman, che ha interpretato Grace. Ho rispettato la leggenda, dice, ma c'è un'accoglienza fredda dopo le polemiche con la famiglia Grimaldi. Caro Alberto Rioli, buonasera a tutti. Buonasera, vice direttore del Sole, che sta cucinando le pagine del Sole 24 ore per domani. Intanto lo blocco per chiedergli, tu che tutto puoi sapere, che tutto puoi sapere, Alberto, a proposito di questo bonus, mi sembra che ci siano delle novità interessanti, i famosi 80 euro in busta paga, il decreto taglia IRPEF, eccetera, eccetera. Sì, esatto, è uscita una circolare dell'Agenzia delle Entrate che ha precisato nel dettaglio come va gestito questo bonus in busta paga da parte dei delle aziende che dovranno poi far figurare nel cedolino i famosi 80 euro. La cosa importante è che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che viene allargata la platea dei beneficiari a quanti percepiscono oggi trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, o che hanno trattamenti di assegni di indennità di disoccupazione. Questa è una cosa che non era stata precisata nel dettaglio, anche se un po' si intuiva, ma è importante che l'Agenzia delle Entrate abbia fatto chiarezza, e quindi chi è in queste condizioni, e francamente sono condizioni particolarmente sfavorevoli, può tirare un sospiro di sollievo. Senti, poi ci sono delle novità, non so se ci sono altre cose da aggiungere su questo. Sentiamo la vice segretaria del PD Serracchiani, che cosa ha detto a questo proposito. È assolutamente importante, è una decisione che è stata oggi, diciamo così, chiarita e formalizzata, e quindi gli 80 euro andranno anche ai cassaintegrati, ai disoccupati e alle persone in mobilità. Ci sembra un gesto assolutamente importante anche per rispondere ad una situazione di difficoltà di tante famiglie. E se l'ha confermato lei, Alberto Rioli, siamo più o meno tranquilli, eh beh, no? Sicuramente, certo, sicuramente. C'è un'altra cosa, dicevo, nella circolare che è importante, che nel computo dei famosi 26.000 euro l'anno, che è il tetto famigerato oltre il quale non si percepiscono gli 80 euro, non vengono considerate le somme percepite come incremento di produttività, cioè i bonus, i premi aziendali di produttività, quelli che sono tassati oggi al 10%. Quindi anche chi sforasse quella cifra a causa di salario accessorio dovuto a bonus di produttività può comunque rientrare ed essere un beneficiario degli 80 euro, questo può essere importante. Da quando cominciano a piovere questi 80 euro? La prossima mensilità. Quindi abbiate ancora un po' di pazienza. Esatto. Senti, poi per le coperture c'è stata più altra discussione? Sai che insomma, sì, rimane questo vulnus anche istituzionale tra il servizio bilancio del Senato e il Ministero dell'Economia. Non è stato ancora chiarito, non si sono chiariti sulle modalità di compensazione, di copertura degli oneri, e è una specie di sfida posticipata. Renzi ha detto lo vedremo, non appena verranno erogati si capirà che avevamo le coperture. Il servizio bilancio del Senato ha eccepito che alcune sono una tantum e troppo aleatorie. Vedremo tra qualche mese poi chi avrà avuto ragione. Invece sul decreto lavoro, che ieri ha ottenuto la fiducia alla Camera, quali sono le novità? È diventato legge? Poi questa anche quella parte che riguardava le garanzie crescenti, no? Rispetto a un contratto a tempo determinato. Sì, guarda, la cosa in realtà poi si è un po' sfarinata nel corso della giornata, perché è finita impigliata in una melina parlamentare che hanno dovuto fare al Senato per posticipare il voto sull'eventuale arresto di Genovese. Cioè l'hanno fatto apposta, dici anche tu? Sostanzialmente quindi sì. Ha ragione il Movimento 5 Stelle? Io credo di sì, francamente, non vorrei sembrare partigiano, ma no. Per come si sono svolti i lavori effettivamente è sembrato che alla fine si fossero create delle condizioni di melina esplicita. E quindi la fiducia formale dell'atto per intero è stata posticipata a domani, però siccome le varie fiducie per l'articolato sono già state date, è come se fosse praticamente già legge. La cosa più rilevante rimane il fatto che i contratti a termine possono durare anche 36 mesi senza causale, una cosa che le imprese salutavano con grande favore, avevano chiesto già da moltissimi anni e non erano mai riuscite a ottenere, e questo a mio parere dovrebbe consentire di spostare una parte della flessibilità che oggi è legata più a lavori intermittenti, a somministrazione, lavoro interinale, cose un pochettino precario e rarefatte, diciamo così, le sposta su un contratto semistrutturato di più lunga durata che prelude poi a un ingresso nelle aziende più definitivo e a tempo indeterminato. Su Alberto, siccome varie cose non mi sono chiarissime su questo Jobs Act, eccetera, eccetera, il decreto lavoro, quello voglia chiamare, poi sono due cose ancora diverse, nel senso non c'è stato un accorpamento unico di questi provvedimenti. Cioè, sono due cose, uno è il decreto che sostanzialmente parla di contratti a termine e di apprendistato, e l'altro invece è un disegno di legge delega che è stato incardinato al Senato. Ed è lì il vero cuore del cosiddetto Jobs Act renziano, in cui si prevede la creazione dell'ammortizzatore sociale unico, la creazione dell'Agenzia Nazionale per l'Impiego che dovrebbe facilitare l'incontro tra domanda e offerta, lì è previsto l'eventuale forma sperimentale di salario minimo però per chi lavora, non il salario universale che vorrebbe Grillo. Poi lì è previsto il contratto a tutele crescenti, cosiddetto contratto unico, quello che piace a Boeri e a Ichino, anche se molto probabilmente il contratto sul modello Ichino, che dura 3 anni a tutele crescenti, sostanzialmente non si applica per 3 anni l'articolo 18, è superato appunto dal contratto a termine che dura sempre 36 mesi. Ed è gestito nelle stesse modalità anche relativamente all'articolo 18 e costa meno. Ma scusami, l'ultima domanda, ma questo di 36 mesi è un contratto che può essere rinnovato in modo frammentato all'interno di questi 36 mesi più volte, o parte e dura 36 mesi? No, può essere entrambe le cose. Sono state ridotte quelle che prima erano 8 proroghe, 8 possibilità, adesso sono diventate 5 all'interno di 36 mesi o 36 mesi. Io penso che le aziende in gran parte faranno una cosa probabilmente annuale per 3 volte di seguito. Credo. Saremo a vedere, tanto c'è ancora modo di parlarne. Modo di parlarne, avremo le statistiche che ci aiuteranno. Grazie Alberto Rioli, buon lavoro. Grazie a te. Ciao Alberto. E ci prendiamo una pausa pubblicitaria. Volevo leggere almeno un altro dei vostri tanti messaggi, vediamo se li ritrovo. Vediamo qua, eccolo qui, Enzo che scrive: il PD chiede voti e proprio oggi ha votato contro l'autorizzazione del arresto richiesto dalla procura per il deputato genovese del PD, mi fate pena, il 25 è vicino, cioè il giorno in cui si voterà per le europee, l'Italia sarà liberata da questo intreccio mafia politica. E poi altri messaggi sul presunto complotto, la congiura nei confronti di Berlusconi, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Allora riprendiamo il filo dei temi di oggi, andiamo sulla politica e su questo presunto complotto nei confronti di Berlusconi. Tra pochissimo saluto l'ospite a cui ruberò 10 minuti, anche se deve scrivere velocemente poi per il Sole di domani. Vi ricordo intanto quali sono i titoli più importanti della giornata. Naturalmente il caso Geithner, Berlusconi insiste e dice fu un complotto, ma il Quirinale assicura di non aver mai saputo nulla delle pressioni sull'Italia. Decreto IRPEF, l'abbiamo appena sentito, il bonus di 80 euro spetta anche a casse integrate e lavoratori in mobilità, così dice l'Agenzia delle Entrate. Caso Genovese, il voto sull'arresto slitta, il Movimento 5 Stelle all'attacco del PD, Grillo lancia un appello alla polizia, non lasciatelo fuggire in Libano, e vedo una notizia di questi istanti, un'agenzia secondo la quale Speranza, capogruppo del PD alla Camera, dice sì all'arresto di Genovese, ma prima gli interessi del paese. E poi Turchia, manifestazioni in tutto il paese, manifestazioni di protesta dopo l'incidente alla miniera con 238 morti. Saluto Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Stefano, che adesso ci aiuti a capire un po' questo intrigo internazionale, anche se, insomma, lo rispiego velocemente agli ascoltatori, ci sono state rivelazioni dalle anticipazioni di un libro dell'ex ministro del Tesoro americano Geithner, secondo il quale ci sarebbero state nel 2011, quando cade il governo Berlusconi, delle pressioni da parte di funzionari europei sul governo Obama affinché disarcionasse Berlusconi, lo sostituisse con qualcun altro. Allora Berlusconi parla di complotto, poi un po' ha ritrattato così, non voglio dire complotto, diciamo che c'è stata probabilmente un'azione concertata, anche se poi c'è stato un duello tra Stati Uniti e Unione Europea nelle ultime ore, perché l'Unione Europea si difende, dice noi siamo stati gli unici a difendere l'Italia in quel momento di gravissima crisi, gli Stati Uniti dicono noi non c'entriamo niente, mentre qualcuno dice erano gli Stati Uniti che volevano l'Italia sotto tutela, insomma un gran casotto come si potrebbe dire. Ma al di là di questo, Stefano Folli, è possibile che comunque delle pressioni effettivamente ci siano state, ma anche perché Berlusconi si è dato una mano da sé in quel periodo in cui c'era una crisi economica enorme che lui sottovalutava dicendo che c'era gli overbooking per gli aerei e i ristoranti pieni, in più forse era molto dedito, diciamo, più a delle cene eleganti che non magari gli interessi del paese, il tutto insieme tra pressione internazionale e la sua personale situazione, insomma, ha fatto in modo che nel 2011 desse le dimissioni. Che pensi? Ma io penso che non ci sia nessun vero intrigo internazionale, e la vicenda della caduta del governo Berlusconi ha a che fare con le difficoltà gravissime che l'Europa incontrava in quel momento e con il fatto che l'Italia era un paese che suscitava preoccupazioni proprio per la leadership che esprimeva, la leadership di Berlusconi. Ora che questo accada, che si discuta anche con una certa durezza negli ambienti internazionali, quando un paese che aderisce all'area dell'euro, cioè alla moneta unica, è in difficoltà e quindi le sue difficoltà si proiettano e coinvolgono tutti gli altri paesi, beh, queste discussioni, queste valutazioni sono nella norma, ecco, scandalizzarsene è abbastanza grave. Ora, il fatto nuovo di stasera è che il Presidente della Repubblica è intervenuto con una nota ufficiale dicendo io non ho mai subito o neanche avvertito pressioni per il cambio a Palazzo Chigi. Allora, di fronte a questo la polemica deve fermarsi, perché se non si ferma si supera il Rubicone, cioè si entra in un campo inesplorato in cui si può parlare di conflitto istituzionale, perché vorrebbe dire, no, che se la polemica proseguisse a questo punto vorrebbe dire che il Presidente della Repubblica non viene riconosciuta la sua buona fede e la verità delle cose che sono state ufficialmente affermate dal Quirinale. Quindi io credo che Berlusconi stesso, che ha usato questa storiella soltanto come pretesto per fare la campagna elettorale, io credo che Berlusconi stesso si fermerà e fermerà i suoi. Già ha cominciato a non parlare più di complotto, poi Brunetta ha chiesto una commissione di inchiesta parlamentare. Quando si chiede una commissione di inchiesta vuol dire che si vuole, come si dice, buttare la palla in calcio d'angolo, perché è chiaro che le commissioni di inchiesta non servono assolutamente a niente, sono delle cose che durano mesi, anni. Quindi mi sembra di capire che Berlusconi, che certamente non è un novizio della politica, sa benissimo che questa cosa, una volta utilizzata per fare la campagna elettorale, perché questa è servita, non può diventare veramente un'occasione di scontro e di conflitto istituzionale al più alto livello. Io farei sentire intanto alcune delle dichiarazioni che ha fatto Berlusconi, cominciando da questa, per esempio. Io ho sempre dichiarato che nel 2011 nei confronti del mio governo c'è stato tutto un movimento per tentare di far sostituire il mio governo eletto dai cittadini con un altro governo, a cui già nel giugno del 2011, quando ancora non era scoppiato l'imbroglio degli spread, il Presidente della Repubblica Napolitano, come lei ha rivelato nel suo libro, riceveva Monti e Passera per scegliere i tecnici di un nuovo governo tecnico. E facciamo sentire anche questo, dove parla di ben 4 colpi di Stato. Credevo che una notizia del genere, che incide sulla nostra sovranità nazionale, avrebbe dovuto perlomeno stare in prima pagina sui nostri quotidiani. Che cosa ci possiamo aspettare noi da questo paese ancora? Da 20 anni siamo qui a combattere per la libertà, abbiamo dovuto sopportare 4 colpi di Stato. Stefano Folli, ti leggo solo 2 o 3 dei tantissimi messaggi che stanno arrivando. Dice Berto da Latina: questa invece è la conferma, sono stati usati tutti i mezzi possibili per far fuori Berlusconi, oltre a quello della magistratura. Mentre Sergio da Brescia dice: purtroppo tutto il mondo aveva l'evidenza di come fosse incapace Berlusconi, l'Europa non poteva far finta di nulla con l'euro che implodeva per colpa dell'Italia. Ma ce n'è ancora un altro fra i molti. Scrive questo ascoltatore: detesto B, ma è inammissibile che funzionari, miei colleghi, evidentemente un funzionario europeo di uno studio, dice violino la nostra sovranità, facile identificarli. Ma insomma, quello che disse Berlusconi dopo aver lasciato Palazzo Chigi all'inizio del 2012 era che lui si era dimesso in maniera più spontanea possibile, che aveva deciso di passare la mano perché occorreva un governo tecnico di larga coalizione, che poi era il governo Monti, e che Forza Italia, cioè il partito che allora era il PDL ancora, il PDL avrebbe appoggiato in Parlamento con convinzione il governo Monti, cosa che avvenne per circa un anno. Quindi il Berlusconi di allora era completamente su un piano diverso del Berlusconi di oggi, ma si capisce perché, ripeto, in campagna elettorale si dicono tante cose. L'importante è non superare una certa soglia, perché non è tanto, diciamo, la credibilità di certi personaggi che è in discussione, quanto il rischio, come dicevo prima, di un conflitto grave. Ma non mi sembra che nessuno abbia voglia di aprire un conflitto vero e proprio con il Quirinale su una questione del genere. Diciamo che avremo ancora un po' di fuochi artificiali intorno a questa vicenda, e poi dopo il 25 maggio si conteranno i voti e saranno altre le priorità. Senti però, Stefano Folli, perché secondo te l'ex ministro del tesoro americano Gatiner se ne è venuto fuori adesso con questa rivelazione? Ma perché allora c'erano delle situazioni di tensione forte fra Europa e Stati Uniti nella gestione di una crisi che coinvolgeva le due sponde dell'Atlantico in modo piuttosto aspro, e quindi credo, immagino, non ho letto il libro, ma immagino anche lui abbia voluto in qualche modo ricordare quali erano le difficoltà e anche i punti di vista contrastanti fra i due blocchi, fra l'America e l'Europa, in ordine ai problemi urgenti che c'erano allora, e tra questi problemi urgenti c'era anche, diciamo, la situazione italiana e la relazione sempre naturalmente alla politica economica e alla possibilità che la crisi italiana non contagiasse gli altri paesi dell'euro. Diversi punti di vista, e poi naturalmente lui vuole difendere Obama, vuole ricordare che il Presidente degli Stati Uniti non volle in nulla interferire nelle vicende interne. Non ci possiamo sporcare del sangue di Berlusconi, disse. Sì, vabbè, sono espressioni colorite, ma non è che si riferisse realmente a un possibile omicidio, delitto. Credo. Delitto. Senti, invece passando alla questione, perché i messaggi sarebbero moltissimi, magari dopo quando ti lascio, visto che devi scrivere, leggerò i messaggi, sulla questione delle riforme. Ora Berlusconi quindi ha fatto, diciamo, questa premessa, come vogliamo definirla, parlando di complotto eccetera, dopodiché è passato alla questione riforme, andrà avanti o no nell'appoggio a Renzi? Sentiamolo. Anche sulla legge elettorale noi siamo fortemente perplessi e vedendo come le cose si sono mosse per quanto riguarda il Senato, vedendo cosa è successo con le marce indietro del governo sulla legge elettorale, ci stiamo domandando, ma forse siamo stati troppo responsabili e troppo generosi, forse diciamo vale la pena di dire al signor Renzi: senti, le riforme vediamo se sei capace di farle, fattele tu, noi ci staremo soltanto quando saranno ritenute da noi delle buone riforme. Cioè, il messaggio presso in parole povere per un americano che non capisce l'italiano è: Forza Italia non voterà le riforme, o senza Forza Italia Renzi non arriverà a fare le riforme? Qual è il messaggio? Forza Italia non parteciperà al cammino di formazione delle riforme, giudicherà quando il testo delle riforme arriverà in Parlamento al momento del voto se queste riforme saranno buone per l'Italia e per gli italiani. In quel caso le voteremo. Era intervistato dal giornalista americano Alan Friedman, quindi ha fatto un passo indietro, ha cambiato idea, come spesso gli succede, Stefano Folli, Berlusconi, oppure c'è qualcosa nel cammino delle riforme che l'ha un po' irritato, contrariato, cose che sono cambiate in corso d'opera? Sono cambiate un po' le prospettive, perché non è pensabile che una Forza Italia che dovesse uscire dal voto europeo molto sotto al 20% sia in grado ugualmente, come se niente fosse, di sostenere il governo Renzi sulle riforme e soprattutto sulla legge elettorale. Credo che Berlusconi si ponga il problema di quale sarà l'Italia politica che nasce il 25 maggio e di quale sarà il ruolo politico del suo partito, probabilmente ridimensionato, certo, in quel nuovo scenario, e nasce tutto da questo. Grazie Stefano Folli. Grazie, ciao ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ringrazio Gustav insieme a tutti gli altri messaggi che dice: non ho nulla da dire ma sto facendo il pane e ti ascolto, quindi posso servire anche a questo, magari a far lievitare meglio, cuocere meglio il pane. Vi ricordo brevemente quali sono state le notizie principali di oggi. Napolitano che dice: nessun complotto nei confronti di Berlusconi che scelse di lasciare, e l'ex cavaliere dice: se attacco la magistratura ho il colle, rischio di andare a San Vittore. Decreto IRPEF 80 euro anche i cassi integrati disoccupati, bonus a stranieri e part time, in Senato c'è una pioggia di emendamenti. Per l'Expo sale lo scontro all'interno della Procura di Milano fra Robledo e Bruti liberati, e poi ecatombe in Turchia, 238 minatori sepolti nella miniera, ancora 120 intrappolati, violenti scontri a Istanbul. Ma adesso è il momento dell'Europa, visto che tra pochi giorni si vota, sentiremo Nunzia De Girolamo del nuovo centrodestra che risponde a Radio 24, a Elisabetta Fiorito, sulle richieste all'Unione Europea. Europa 24 notte. Buonasera, per lo Spazio Europa abbiamo Nunzia De Girolamo, nuovo centrodestra, e chiediamo subito: quali sono le proposte del suo partito per un'Europa che dia più occupazione e magari ci sia un po' meno rigore? Esattamente, noi siamo uno dei paesi che ha fatto meglio i compiti a casa e oggi chiediamo rispetto all'Europa, credendo che l'Europa sia un grande contenitore costruito dai nostri padri e quindi non può essere distrutta, ma piuttosto riscritte le regole. Noi vogliamo collaborare al fatto che si scrivano nuovamente le regole di un'Europa che faccia sviluppo, che faccia economia. Ecco, noi vorremmo un'Europa di cittadini, non un'Europa dei burocrati, e lo dimostra uno dei temi che fa parte della nostra campagna elettorale, che è proprio il tema dell'immigrazione, perché crediamo che noi abbiamo il dovere dell'accoglienza, il dovere di dare la possibilità a tante persone che arrivano anche tramite programmi come Mare Nostrum, qui essendo comunque la nostra posizione geografica di vantaggio per certi versi, ma di passaggio per chi scappa da situazioni di guerra e di disperazione. Siamo sicuramente attenti alla persona umana, però allo stesso tempo chiediamo all'Europa di esserci vicino e quindi di fare in modo che l'Italia possa essere sede anche di Frontex, perché riteniamo che con tutto il sacrificio e la collaborazione che diamo all'Europa, l'Europa non possa girare la testa dall'altra parte e non può scrivere all'Italia dicendo che ancora c'è bisogno di una letterina, perché noi crediamo che i compiti fa casa l'abbiamo fatto, il sacrificio di stare sotto le regole altrettanto. Oggi vogliamo un'Europa molto più attiva e che quindi sia in grado di eliminare molta burocrazia e di fare in modo che i cittadini diventino protagonisti. Due parlamenti sono troppi? Eccessivi. L'Italia sta facendo spending review per quanto riguarda le istituzioni, quindi la pubblica amministrazione, tutta la burocrazia che riguarda il nostro paese. Le famiglie sono in grande difficoltà e stringono la cinghia. Crediamo che due sedi in Europa siano troppe e che quindi bisogna semplificare e allo stesso tempo risparmiare. Quindi fa parte anche questo dei nostri temi, fa parte di un'Europa molto più snella e che dia più risultati piuttosto che sia un proliferare di sedi inutili. In che famiglia europea vi riconoscete? Beh, Partito Popolare Europeo senza dubbio. Questa volta noi abbiamo una grande occasione che è quella di votare il Presidente della Commissione, quindi anche da questo punto di vista c'è una nuova Europa. Ecco, credo che oggi bisogna andare in Europa in un modo differente, non volendo distruggere tutto come qualcuno vuole fare e immagino Grillo, perché se io domani mattina rompo la mia macchina non la butto giù da un burrone, cerco di aggiustarla. Quindi in Europa dobbiamo aggiustare le regole esattamente come se aggiustassimo una macchina che è rimasta in panne. Ma Angela Merkel, che è nella vostra famiglia, la riuscirete a convincere, visto che lei è poi la fautrice dell'austerità? Ma sarà anche la fautrice dell'austerità. Se vuole più Europa, se vuole un'Europa che funzioni, deve tener conto del fatto che c'è un'Italia che funziona, non solo perché siamo nella stessa coalizione, ma soprattutto perché la Germania e l'Europa non possono fare a meno di un paese straordinario come l'Italia. Ringraziamo allora Nunzia De Girolamo, Nuovo Centrodestra, che ci ha spiegato, ci ha illustrato le linee del partito riguardo alle elezioni europee. Grazie. Grazie a lei e buon ascolto a tutti. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ci occupiamo quindi del Festival di Cannes 2014, 67esima edizione, che proprio oggi ha aperto i battenti. Per noi c'è la nostra inviata del Sole 24 Ore, Cristina Battocletti. Ciao Cristina. Buonasera a tutti. Cristina, tra l'altro quest'anno il Festival di Cannes omaggia il cinema italiano. Qualcuno si chiede se sia una coincidenza per l'Oscar a Sorrentino oppure se era già nell'aria per un qualche motivo. Insomma, comunque già dalla locandina si capisce che è dedicato al cinema italiano, perché c'è il bel volto di Marcello Mastroianni che tu avrai visto in tutta la sua grandezza e bellezza. Guarda, in questo momento sono sotto, il suo volto è meraviglioso, ha mandato anche un tweet con la sua immagine perché sembra proprio che domini Cannes. Sono adesso sulla Croisette, appena finito la cerimonia di inaugurazione, ed è lui con i suoi occhialoni che punta il dito sul naso, è molto bello. E tra l'altro domani proiettano 8:30 proprio sulla spiaggia, quindi insomma non è una coincidenza, e può essere anche una coincidenza con l'Oscar. Comunque viva il cinema italiano, che comunque quest'anno ha dei titoli in concorso. Un titolo in concorso e altri titoli in sezioni importanti. E tra poco, infatti, ne parleremo tra pochissimo. Intanto già mi immaginavo questa ambientazione suggestiva di 8:30 proiettato sulla spiaggia, che deve essere una cosa bellissima. Però prima di parlare dei... Intanto le pellicole sono 18 in totale e ce ne sono anche alcune italiane. Ma oggi tu hai visto quello tanto controverso, contestato, dedicato a Grace di Monaco, che si titola Grace, con Nicole Kidman. Sentito parlare di fisi, rischi di risate addirittura. Allora, ti dico solo che The Guardian, e io concordo, l'ha definito uno dei più brutti film passati finora nell'edizione di Cannes. Dunque, povera Nicole. È vero che si apre e si chiude di solito con film di cassetta che fanno successo, con delle grandi star, però questo era parecchio brutto. C'è una brava Nicole Kidman, un po' ingessatina nei panni di Grace, però caspita, è veramente difficile interpretare una figura così charmante, neppure Nicole Kidman riesce. A un certo punto dicono, disperati perché c'è la crisi in Algeria eccetera eccetera, dai, andiamo a vivere in una fattoria all'interno della Francia, e c'è stato un boato di risate. Lei è il principe. Lei, Lei è il principe, lei infatti aveva una collana che non riusciva nemmeno a portare, di diamanti con i orecchini che pesavano. Insomma, è un po' irrealistico come film, e tutto questo peso sul Principato di Monaco, tragicità, insomma, un po' tanto, però... Quindi la critica concordo. L'ha stroncato, te compresa, insomma, bisognerà vedere poi il pubblico che cosa dirà. Quindi non è tanto colpa di Nicole Kidman, mi dice proprio la sceneggiatura che è un po' carente. Sì, secondo me ci sono dei dialoghi terrificanti, e comunque lei è brava, non è eccelsa, e il resto è poco credibile, tutta questa attenzione. Se avessero fatto un biopic, che adesso vanno tanto, solo su di lei, va bene, ma hanno frammischiato società, politica, drammi personali, insomma, una Lady Di un po' più su, triste, però poi recupera il rapporto con Hitchcock, purì che non si risolve bene. Non convince, abbiamo capito. Sì. Senti, invece Cristina, dicevamo dei film italiani, a parte appunto dedicato, che omaggia il cinema italiano, e Otto e Mezzo, e Fellini, e Mastroianni, però in gara c'è Le Meraviglie di una regista, no, italiana. Sì, Alice Rohrbacher, che aveva debuttato l'anno scorso con un lungometraggio, due o tre anni fa, adesso non ricordo benissimo, con un lungometraggio molto bello, e adesso propone Le Meraviglie, racconta la storia di una famiglia che tenta di ripararsi da quelle che sono le insidie della società odierna, ovvero il continuo connettersi, il continuo essere social, il fatto di non riuscire a proteggersi da una agricoltura, da un'industria, che incombono su di noi, che ci fanno piccolissimi, e che tenta di vivere riparata, ma ahimè è molto difficile. Il film non l'abbiamo visto, però dicono che sia molto molto bello, il fatto che lei sia molto giovane. Recita sua sorella Alba Rohrbacher, uno dei protagonisti, e passerà domenica mattina, noi lo vedremo sabato sera. C'è un altro film che passa domani, molto importante, in una sezione importantissima, che è la Semaine de la Critique, giunta alla sua 53esima edizione, che si chiama Più buio di mezzanotte, di Sebastiano Riso, che racconta di questi ragazzi di vita di una comunità di omosessuali nel catanese. È un film pasoliniano, dai tratti quasi antiquati anche nella pellicola, ed è un film interessante comunque, ispirato a una storia vera che farà discutere. Dicono che se ne siano davvero innamorati in Francia. Beh, tra l'altro l'anno scorso ha vinto proprio Vita d'Adele, sempre tematica omosessuale, esatto, in questo caso, esatto, di due ragazzi. Però questa l'ha vinta il concorso, ed era il film di Abdelatif Kechiche, che raccontava appunto la storia di queste due ragazze molto molto bello il film, molto bello, ha gettato tantissime polemiche, non tanto per il tema omosessuale quanto perché sembra che le due attrici si siano ribellate alle al scene fatto che, esatto, fossero esposte per molte molte ore delle scene sessuali e facevano fatica, però diciamo, insomma, che il film è stato premiato e forse dovrebbero essere anche contenti. Senti, invece poi c'è anche Asia Argento, se non sbaglio, in qualche categoria. Asia Argento, che promette un film autobiografico, si chiama L'Incompresa, l'ha scritto con Barbara Alberti, sembra che sia molto molto cattiva con la sua famiglia, e insomma con toni non morbidi, molto tranchant per quanto riguarda, non sono sbozzati i personaggi, buoni e cattivi, sembra che faccia anche molto ridere perché rivela delle cose, insomma, queste che sono le fobie del padre, che è un attore chiaramente, Dario Argento, e nella sezione Un certain regard, e vedremo che cosa riuscirà a fare. Comunque la passerella, Roberta, è stata bellissima stasera, ci sono sempre le solite centinaia e centinaia di persone assiepate con le scalette a cercare di vedere le attrici, le star, e c'è molto movimento. Direi che Cannes è molto meglio piazzata rispetto all'anno scorso, che era un po' in discesa. Senti, e quindi per chiudere, c'è un sentore un po' di chi potrebbe vincere la Palma d'Oro quest'anno, no? Sempre un po' si anticipa. Capita, è molto molto presto. E allora, per dirla a presto, Cristina. A presto, grazie. E noi ci sentiamo presto, tra poco.